l'abito che uscito fuori, dal mio corpo senza tasche ma neanche colori, l'avventura di una sigaretta, sigaretta, abita nei miei pensieri, trasgressiva per il flusso dei miei desideri, l'oppressione di una doccia fredda, doccia fredda. Rapida sulla mia bocca, la prigione di un sentiero passo in fiume in secca, la ferita che non so curarmi, so curarmi, sanguina dei tuoi misteri, la menzione sotto il busto del sapore amare, con l'amore per i non fermarti, non fermarti, sai che voglio te, con le espressioni da dipingere, sai che voglio te, senza attenzioni e poche chiavi in mano. Io seguo te nella tua vita, da questo tempo tu storia guidami e falla a me. Non fermarti, la vittoria del tuo istinto sulla metodicità del mio ragionamento, la tortura di mille orologi, orologi. Di che ti è come una pioggia, ma ti di giorni legati e quasi sempre senza, a quel prodigio so tu negarti, ai schemi dei mortali, ai grigiori spaventosi dei loro finali, corri amore con i non fermati, sai che voglio te, le tue opinioni, la tua critica, sai che voglio te, la tua facciata bianca e la tua nera, seguo te per la tua strada, volta ti vedrai, tu storia, ispirami, storia, stringimi, storia, leggimi, storia, guidami. Storia, leggimi, storia, guidami.